Volo sopra New York, sopra la mia strada, la 52esima, i miei locali, la mia gente. Volo, scendo, scendo. Apro la custodia del sax. Come faccio ad averla con me? E suono. E suono. Sono vecchio ormai. Sono nato il 29 agosto del 1920, in una mattina piovosa di fine estate, lo diceva la mia mamma, poveretta. Lei non aveva visto il mio tempo. Nel mio tempo. Nel mio tempo. Quello vero. Splendeva il sole. Splendeva il sole. Un sole caldo, tipo quello che c'è a Parigi, in primavera o in autunno, che tu sei vestito come se dovesse fare un freddo cane, invece ti sorprende una luce chiara, luminosa, calda, calda. E allora ti siedi su una panchina e chiudi gli occhi. Felice. Magari in quel piccolo giardino che c'è vicino alla Sorbonne. Quante mattine a scaldarsi il cuore. Ma non devo volare troppo in fretta, altrimenti voi non capite. E questa notte io ho voglia di voi. Io che sono sempre rimasto solo, io che non ho mai avuto amici, io questa notte ho voglia di voi, perché questa notte voi dovete sapere. Una fiamma blu, una stufa accesa. Io che non amo nessuno, mi innamoro solo della moltitudine. Cammino solo dentro un campo pieno di urne cinerarie. No, non lapidi, urne. Ah, cinciampo, io abituato a volare, per una volta che metti i piedi a terra mi rompo la punta delle dita contro questi pezzi di legno. Io che di solito volo sopra di voi, volo perché ho scoperto quello che voi non sapete. Ho scoperto che c'è un tempo fuori dal tempo, un tempo che i vostri orologi non misurano e che voi non avete neppure idea dove sia. Un tempo che genera uno spazio dove ci siete tutti, e ci sono anch'io, ma noi siamo diversi, sì, diverse le cose che facciamo. Ora che non riesco neppure a muovere le dita, che anche respirare mi sembra uno sforzo impossibile, ora che sto qui, avvolto in una coperta sotto il sole del Messico, a bere sangue di iguana sperando di sciogliere il ghiaccio che ho dentro. Ora che sono ormai immobile, bloccato dentro questo corpo enorme diventato inutile, non mi resta che far viaggiare la testa, che quella funziona ancora bene. I pensieri corrono, beati loro. Riesco ancora a suonare tutta una melodia muovendo appena le labbra. Anche gli assoli mi vengono bene. Caldo, entra l'umidità, passa l'aria e non serve mettere le mani intorno alla bocca e soffiare. Non c'è più niente da soffiare. Fa freddo. Guardo fuori dalla finestra. Le luci si spengono dentro ai canali, è quasi buio. Ti ricordi? A noi è sempre piaciuta l'Europa. Parigi, Berlino, Amsterdam. I viaggi senza meta di tutti noi che abbiamo le pietre nel cuore. Con chi sto parlando, anche le mie donne se ne sono andate. È rimasto solo il vecchio indiano che alla fine mi ha trovato. Non ha più bisogno di nascondersi dietro gli specchi o nei riflessi delle finestre. Ormai non gli faccio più paura, solo pena. Un palo della luce in fondo alla corsa di un treno. C'è il sole, il vento piega l'erba alta, un mare di pianura. Alla fine del viaggio c'è un palo di legno, grosso, alto, di quelli che smistano tutte le linee. Il treno è lontano prima, ma poi si avvicina. Va forte, il palo è fermo, il treno va più veloce, ma sembra fermo. E il treno sembra andare più veloce, ma in realtà, se lo spazio fosse tempo, il treno andrebbe molto più veloce. E il palo è sempre davanti al treno. Ogni volta che il treno si affanna, sbuffa per partire, soffia a vapore con rabbia, il palo è già lì, davanti. Poi c'è un attimo in cui il palo e il treno si toccano. Soltanto in quell'attimo spazio e tempo coincidono. È un attimo. Sì, lo so che non capisci, mia cara e nobile Nika, quello che ti voglio dire. Questi pali, questi treni, cosa c'entrano con un uomo che se ne sta chiuso in casa, barricato nella tua casa da quasi 10 anni, nascosto da tutti, in silenzio? Urlano tutti, sempre. Camminano e urlano, corrono e urlano, dormono e urlano. Io mi schiaccio le mani sulle orecchie, sino a farmi male, ma il rumore filtra attraverso le dita. Non c'è niente da fare, urlano sempre. E il mondo dei bianchi è una bocca enorme, oscena. Mi urlano in faccia da quando sono bambino. E da allora quelli non hanno mai smesso. Forse è per questo che adoro il silenzio, anche nella musica. È un attimo. Sono a San Francisco, la luce mi acceca e strizzo gli occhi. È un gesto involontario, lo fanno tutti, ma per me no, è una fotografia, la prima di un album senza fine. Canotta bianca, il giubbotto nero, la sigaretta sbilenca, il passo da cowboy, il James Dean del jazz. È un attimo. Guardo intorno a me e la mia immagine è rimandata 1000 volte dai grattacieli che mi assediano. Apro uno spiraglio di palpebra e prima che il sole mi ferisca lo vedo lì che sogghigna. Sembro io, ma Cristo, indiano però, un indiano vecchio di 1000 anni, tutte quelle rughe, quegli occhi piccoli piccoli. Mi guarda, è un brivido, poi scompare, il suono di un clacson lo scaccia. Io sono in mezzo alla strada, ma che ci faccio? In mezzo al fiume di macchine impazzite pronte ad investirmi. Non lo so. Una fiamma blu. Una stufa accesa chissà da chi che sputa fuori una lingua blu di fuoco e calore. È un lampo. È la prima cosa che ricordo della mia vita. Avrò avuto 3 anni. Sono lì nella cucina di casa mia ed ecco che quell'aggeggio scuro mi assale come un drago. È la prima cosa che mi resta in mente. È stata quella la prima volta che l'ho avuto al mio fianco. Da lì l'indiano è sempre stato con me. Angelo, avvoltoio, demone. Per questo io vivo dentro un acquario. Sì, io sono un piccolo pesce con un cappello nero. Vorrei essere così. Io sono così, dentro al mio acquario al sicuro. E chi se ne importa di quello che c'è fuori? Sto qui, con la fronte appoggiata al vetro della finestra. Da qui vedo la strada. Quella è la mia strada. Ma non ho nostalgia. No, ce ne siamo andati tutti. A che cosa serve rodersi l'anima? L'indiano C'è in tutte le mie fotografie. C'è. Ma lo vedo solo io. Le fotografie, specchi, riflessi infiniti, la mia condanna. Forse aveva ragione quel tizio, quel fotografo. Diceva che prima di conoscermi non aveva ancora capito il senso della parola fotogenico. Da allora è passata una vita piena di tristezza, poco altro, nient'altro. La tristezza e la rabbia per nasconderla. E le fotografie che raccontano la mia vita, anzi, la mia faccia. Cioè, l'unica cosa che interessa di me, la mia faccia. Simbolo, icona, avvertimento. Anche pensare ormai conta poco. Mi capita sempre più di rado, nei rari momenti in cui finisce l'effetto del gin, come adesso che spremo bottiglie vuote. E in questi momenti smetto di parlare di me in terza persona. In questi momenti la mia testa riprende a funzionare. E allora per un momento sono soltanto un uomo che non ha più voglia di perdere tempo a ricordare il passato, che non se lo ricorda neanche più il passato. E io forse sto meglio così. Sino adesso, persino qui ad Amsterdam, che la mia faccia sembra il disegno di un caricaturista ubriaco, l'incubo di stare dietro un obiettivo non mi lascia mai. Sento i click, sento le voci dietro di me. Vogliono sapere, ma non fanno domande. Le voci, come avrà fatto lui che era bello come un dio a ridursi così? Che cosa mai avrà fatto? Tornare indietro con la testa mi riesce facilissimo, troppo facile. Rivedo l'immagine di me prima di tutto questo e non voglio vederle, a vederle sto peggio. Intrappolato dentro di me non riesco a starci. Lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. Io non volevo far altro che suonare il mio strumento, cantare e sperare di lasciare qualcosa di buono nella musica. Non me l'hanno fatto fare. Non me l'avete fatto fare. Ora lasciatemi in pace. Guardate le foto, guardate quelle. C'è scritto tutto quello che c'è da leggere. Basta saper guardare. Io, che quando suonavo il basso li mettevo tutti in riga, urli a insulti chi non capiva un cazzo, sputi, pugni contro il muro, vento a scuotere il mondo, nave nella tempesta, spruzzo in faccia, ma guai a chi mollava la presa. Il basso diventava piccolissimo, schiacciato dalle mie mani. Quante risse, quante urla, e dopo la musica, il sesso, pompini, scopate, con una donna, con due, con tutte le donne del mondo. Più di 30 in una notte a Tijuana, tutti a farsi scopare da me, a fottere il mondo, a farsi fottere, che tanto poi non cambia molto. Esagerato, sempre, per sempre pensavo, e invece non è durato che lo spazio di un'illusione, la mia. E poi quel giorno col suo, quel giorno che correvamo in macchina e io con la coda dell'occhio ho visto quello strano negozio, le pareti bianche, le vetrine liquide, dentro soltanto sedie a rotelle, stampelle, bende, letti d'ospedale, una visione lunga, un dolore, un attimo, lì per la prima volta ho capito tutto, anche se stavo bene, lì ho cominciato a morire. La prima volta che ho capito che non potevo stare con voi è stato quando ero giù a Camariglio, sì, rinchiuso in quel manicomio. La prima volta che sono stato felice in bacio è stato sul piccolo palco di un piccolo locale di St. Louis. E anche la volta in cui sono stato più felice in assoluto. Anzi, è stato il momento in cui ho detto: cazzo, questo è il paradiso! Ed è strano perché di solito queste cose non le capisci subito. Cioè, è dopo che ti ricordi di essere stato felice. Io no, no! Io in quel preciso momento, in quel locale da due soldi, su quel palco con le assi rotte, ho capito subito che era il giorno dei giorni. Per questo ne ricordo ogni sfumatura, ogni angolo. Da allora ci penso sempre. Da allora non sono mai stato più così felice. Ci sono andato vicino qualche volta, un tocco, un'illusione, poi più niente, via tutto, giù a precipizio, giù all'inferno. La mia vita, ora che ho capito, è tutta qui. Una lingua blu, un giorno di felicità immensa e milioni di ore sulle caselle del gioco dell'oca per cercare di ritornare su quella casella. Ma ogni volta che ci sono stato vicino, proprio ad un passo, i dadi rimbalzano contro qualche spigolo e mi spingono di nuovo in fondo a ricominciare da capo. sempre così. 2 settimane fa ero felice. Ora sono fermo, immobile, in un letto d'ospedale con questi tubi di gomma che mi entrano dappertutto e questi dottori impettiti che mi dicono quello che devo o non devo fare. Aveva ragione Bird a ridere di loro. Vaffanculo! Ora rilancio i dadi e vediamo come va a finire. Camariglio, mi avevano messo in una stanza con altri 3 e la mattina entrava un dottorino tutto ben lavato e roseo che faceva piacere guardarlo, una specie di perfetto cretino che si sedeva accanto a me su una sedia e mi faceva coraggio, mi faceva un sacco di domande a me che volevo soltanto morire e non pensavo a mia figlia, a mia moglie, a nessuno, e il peggio che lui si offendeva se non gli davo retta, sembrava aspettarsi che io mi mettessi ritto in piedi sul letto meravigliato della sua bella faccia bianca, dei suoi capelli ben pettinati e delle sue unghie perfettamente lucide, e che guarissi, sì, come quelli che vanno a Lourdes, gettano via le stampelle e si mettono a correre e a saltare. Vedi, loro, quei tipi lì, sono la scienza americana e sono fieri di esserlo, pensano di sapere tutto e a me fanno solo ridere. No, beh, in fondo sono dei bravi ragazzi, che vivono convinti che quello che studiano e che quello che fanno sono cose molto difficili. Beh, anche nel circo è lo stesso e anche tra di noi musicisti. La gente pensa che certe cose sono difficilissime e per questo, no, ti applaude i trapezisti oppure me. Io non so cosa pensino, che uno si stia spaccando in 4 per suonare bene. In realtà per me le cose difficili sono altre e ben diverse, quelle che la gente crede di poter fare in ogni momento. Ma voi avete mai provato a guardarvi allo specchio, eh? Oppure a tagliare un pezzo di pane? Oddio, io lo odio il pane. Una volta ero al ristorante, un bel pollo fritto davanti a me, una montagna di patatine, la birra gelata, ma c'era quel pezzo di pane che dovevo tagliare. No, non con le mani, dovevo tagliarlo con un coltello e sono rimasto lì fermo, immobile, con la mano sospesa a mezz'aria, l'impugnatura del coltello stretta fino a farmi male, tremavo e non ce l'ho più fatta e ho lanciato il coltello il più lontano possibile. Ed è stato difficile, sì, difficile spiegare a quell'uomo che io non volevo mica ucciderlo con una coltellata. Ora ricordo, sono dentro un ospedale psichiatrico, un manicomio, la mia trappola, e mi ci sono voluto cacciare io. Non trovo più il numero del mio analista, quello stronzo non si fa trovare, io ho mal di testa, un male terribile, e ora sai che faccio? Vado a curarmi. L'ospedale che cura la testa è come il dentista che cura i denti. Bravo stupido! Dentro trovo soltanto sguardi idioti, domande cretine, il dottore a guardarti e uno che dice all'altro! La gente irreale, paranoia, pensano di avere tutto il mondo contro. Ma pensa ai negri di tutto il mondo, soltanto a quelli che sono in questa stanza! Che incubo! Mi metto su una sedia troppo piccola per me, ad un tavolino troppo stretto. Sembro Gulliver sull'isola dei nani. Prendo una matita e scrivo. Non sono svanito, né ho rinunciato alla musica, anche se a molti può sembrare così. Ma io ho ricevuto lettere in quei New York, tutti si chiedevano dove fossi sparito! E ho lavorato, e ho prodotto musica che non è stata suonata, e ho scritto parole che non sono state lette! Parlo e nessuno mi ascolta. Sono un gigante invisibile. Lo so, Nika. Sì, lo so. Tu dici di capire, ma la tua è la comprensione del cuore, non della testa. Tu mi vuoi bene, me ne hai sempre voluto, ma se ti fermi a pensare alla mia vita, ti viene da impazzire. Che buffo, in teoria dovrei essere io quello pazzo, ma io non sono pazzo. Anche adesso che sono chiuso qui dentro da quasi 10 anni, io non sono pazzo. Per me è tutto logico, è la logica conclusione. Ed è sempre stato così, semplicemente così, senza problemi per me. La musica. Ma la musica, quella sottile, che sembra polvere. Quella è stata la cosa che mi ha tenuto in piedi. Ma è anche la cosa che mi ha ucciso poi, soffocato. Ma c'è stato, c'è stato un momento in cui mi è sembrato di stare bene. È difficile da spiegare. Solo il mio amico Ben Webster, lui l'ha capito. A lui succede la stessa cosa su in Europa, al nord, al freddo. Ubriaco, finito di suonare nei club, all'alba, lui si mette davanti al mare nero, alla fine di un molo lungo che arriva quasi a metà della baia, in un equilibrio pericoloso. Lui porta il suo sax alle labbra e suona piano. Le note timide, impaurite, con l'aria di chiedere scusa. Nessuno le sente, ma lontano, tra la schiuma delle onde, una balena, sì, una balena, mette il suo grosso muso fuori dall'acqua. La fessura bianca dell'occhio brilla lucida. Un colpo di coda, altra spuma bianca. Lei ha sentito. Lei lo sta salutando prima di andarsene su al nord, in salvo. Ecco, a me sembra che nessuno mi senta. Ma non mi interessa. Sott'acqua la mia musica si sente benissimo. Lo so, Nick. Lo so che fai fatica a seguirmi. E ti stupisci anche. In più di 30 anni non mi hai mai sentito parlare così tanto. Io ho sempre odiato le parole. Ma adesso no. Adesso che il treno sta arrivando, io devo parlare. Un piccolo sforzo. Come da bambino. Con papà dormiamo nei campi, perché non ci fanno entrare negli alberghi. E allora io, per scacciare la paura, suono. Ma suono piano, per non svegliare gli altri. E per un attimo i cespugli, gli alberi, restano in silenzio. E poi piano piano cominciano a venirmi dietro. No, non è così. E ora io non ricordo, è passato troppo tempo. Io non me lo ricordo, no. Ho 18 anni quando i dadi si fermano sulla casella della felicità. Sono sul palco del Riviera, un posto da negri, nel quartiere negro di San Luis. Mi guardo attorno con l'aria un po' impaurita, cercando di capirci qualcosa, quando un tizio dall'aria giocosa mi viene incontro. Ehi, quella che hai in mano è una tromba? Sì, è una tromba. Allora dovresti essere un trombettista. Sì. Bene, sali sul palco e suona con noi, che quell'imbecille della nostra seconda tromba è a letto con la febbre. Facile come non lo è più stato, felice come mai più. Appena questi tizi iniziano a suonare, capisco, sono Dizzy Gillespie e Charlie Parker. I musicisti della band, che pure li conoscono da settimane, sgranano gli occhi, non si sono ancora abituati, non ci si abitua mai e poi si chiedono perché abbiamo iniziato a drogarci. È impossibile resistere con le proprie forze! Dizzy e Charlie si sfidano in cielo. Poi mi giro e sento una voce strana. Cioè, una voce. L'ho capito dopo che era una voce. Subito ho sentito un trillo strano che dialoga con il sax di Bird e la tromba di Dizzy. Poi quando mi sono girato ho visto questa ragazza negra. Un incanto. È Sara. Sì, Sara Vaughan. E non basta il nome per sapere quello che succede su quel palco. Giocano loro tre, si inseguono, si coccolano, fanno l'amore tutti insieme. E noi lì, poco più che guardoni, ma anche noi dentro l'orgia. Sudo, mi tremano le mani, la testa mi fa male, sono stordito. Perché sono l'unico a sapere che nessuno di noi sarà mai più felice come in quella session dentro un locale da 2 soldi in una città inutile sulle carte geografiche. Infelice anche nel momento migliore, quando la malinconia si è divertita a nascondersi per un attimo. L'incubo di un'illusione. Guardate la foto, quella lì la riconoscete subito, è quella con un negro in primo piano. Il negro Hai il vestito tagliato male che è caduto storto, la giacca troppo piccola con le pieghe, i pantaloni enormi da clown. Il negro suona il sax. Il negro Charlie Parker. Bert. C'era un sole caldo quel giorno, tanti anni fa, doveva essere il 51 o il 52. Un tizio mi chiama e mi dice che Charlie Parker sta facendo delle audizioni per i club della California. Io ci vado. Siamo tutti lì in quella sala buia, sul palco verde enorme, grasso, sformato come se fosse un pupazzo di gomma con l'acqua a riempire a casaccio i vestiti logori. Ad un tratto si ferma e urla: c'è qualcuno qui che si chiama Chet. Un colpo alla schiena. Sono io, Chet. Salgo sul palco con lui. Bird non mi dice niente. Io allora faccio l'unica cosa che so fare. Suono. A togliere note come faccio quando sto male. A scavarmi dentro. Quando scendo dalla mia nuvola, vedo Berde che sorride con il sax in bocca, poi smette, io smetto. L'audizione è finita, scelgo te, biondino. Per quel momento, per quelle tre parole, forse vale la pena aver vissuto il resto di questa vita del cazzo. Charlie, ho provato a dirtelo un sacco di volte, ma non mi hai mai ascoltato. Penso che tu non mi abbia mai ascoltato. Non ascoltavi nessuno. Eppure con te, nonostante tutto, che sono riuscito ad andare più vicino alla casella della felicità. Più vicino e più lontano. Guardate la foto. No, quella lì la riconoscete subito. È quella che amo di più. Sono lì, sul palco con lui. Cioè, per vedermi dovete aprire bene gli occhi, perché sto in fondo a destra, quasi al buio. La luce ruba solo un piccolo spicchio di me all'ombra. Potrei essere strapico, pelato, alto, basso. Potrei essere un mostro. Non importa, non si vede niente. Qui c'è solo la musica. Ho la tromba in una mano, la destra. Tra poco salirò sul palco con lui. Voleremo via assieme. Le luci. Vedo le luci piccole, appannate dall'umidità. E quando volo faccio fatica a distinguere bene le forme. Poi, una volta a terra, gli occhi e la testa si abituano, sì, si abituano al nuovo tempo. Ah, a questo... Ma questo è il 3 di Usis, e questi sono i miei ragazzi, poveracci, quante gliene ho fatte passare. Sono già tutti sul palco, il fumo delle sigarette cerca inutilmente di scappare verso l'alto, assedia le luci, le annebbia. Il rumore della cucina arriva, sì, passa attraverso la porta sul lato del locale, e dalla parte opposta il bancone enorme, pieno di bottiglie, le mie sante bottiglie. Con gli strumenti in mano e i piedi a battere il tempo ci sono i miei ragazzi. Ma sono incazzati, certo, del loro tempo io sto affogando dentro le lenzuola bagnate di un motel pericolante a due isolati dalla 52esima strada. Del loro tempo sto male, ma male che a dirlo a parole sarebbe impossibile. Io sono grasso, deforme, io sono uno scherzo dell'arte. E la faccia scavata, gli occhi sgranati e rossi e questa pancia enorme che sembra un pallone da basket che rotola sopra la cintura dei pantaloni. Mi vengono a bussare alla porta, arranco. Ma che cosa vogliono questi? Qua mi gira tutti. Oh, sì, arranco fino al locale. Salgo l'ultimo scalino del calco. Che fatica! Il mio letto caldo, dove diavolo è finito? No, lo so, nel loro tempo sono fermo, immobile, minuti lunghissimi. Io sudo, sì, incapace di muovere anche il più piccolo muscolo della faccia. Ma non è colpa mia, no, non è colpa mia. Per me non è trascorso neppure un secondo. Il momento di iniziare a suonare arriva da solo, non lo si può mica comandare. Dai, dai, dai, vediamo cosa sappiamo fare. Io non mi preoccupo, non chiedo, io so. Guarda, guarda, c'è Mike che sembra un ragazzino su un primo orgasmo. E Max? vicino Buzz, mette il naso fuori dal suo abisso di eroina e alcol. E noi suoniamo da Dio, lo dicono tutti, questo è il vivo. È la nostra notte, arriva Dixie, poi Lester con Lady Day, e c'è anche Monk, e c'è Sara che è uno splendore, e noi lì a dare colore alla scena su cui tutti gli altri si muovono. Siamo paesaggio, letto, pavimento, divano, casa, quartiere, città, paese. Noi siamo il cielo, e loro vivono dentro la nostra musica, e per un attimo volano con me, e non c'è più il mio corpo deforme, non c'è più l'eroina, niente fegati distrutti, polmoni bruciati, cuori traballanti, c'è solo lei, sì, lei, la musica. Dura ore nel loro tempo, niente nel mio, dura fino a quando il proprietario all'alba decide di non pagarci, dice che la star del gruppo sono io e che sono arrivato tardi troppe volte, che anche questa sera sono rimasto sul palco a lungo in silenzio mancando gli assoli, ah, dormendo, dice lui. Vai, le Max abbassano gli occhi, io no, io mi incazzo, ma quello è un tipo strano, uno che viene da Chicago, un duro, infila la sua mano bianchiccia dentro il cassetto e tira fuori una pistola, usciamo in fretta, io non mi giro, Max e Miles saltano i gradini quella volta, in strada piove, cazzo, e io non ho dei soldi per l'albergo, e i miei soldi ce l'ha quello là, cazzo, ritorno indietro, ritorno sui miei passi, perché a me non me ne importa proprio niente di prendermi una pallottola in mezzo alla pancia, ma Bud, sì, proprio il vecchio Bud Powell, fatto perso, allunga le sue mani e mi tiene fermo, mi abbraccia forte, piango, sì, lui piange e piango anch'io, acqua dappertutto. Piove nel buio. Siamo poco più che ragazzi, Bud. Lui è già una star e anch'io ho il mio nome. Siamo fermi in macchina a parlare. Cioè lui parla. Io ascolto. Trema. Dice che la droga e l'alcol lo stanno uccidendo. Dice che senza droga e senza alcol lui morirebbe. E poi dice che i bianchi lo vogliono rinchiudere in un manicomio. Vede le ombre. Sente le voci. Bad. A un tratto vedo anch'io le ombre. Sento le voci. Grosse. Grasse. Poliziotti. Con la pancia gonfia. I capelli corti. Il manganello in mano e una torcia nell'altra. E illuminano le nostre facce. Bud trema, si toglie dalla tasca un pacchetto bianco e lo lascia scivolare tra i piedi, goffo. Io sto fermo, immobile. Io potrei fare qualcosa, ma sto fermo. Ed è una delle prime volte che mi succede. Una delle prime volte che capisco che capita. Fuori sta per scoppiare l'inferno e io me ne sto tranquillo, come sul divano di casa. La bocca incapace di aprirsi, anche i pensieri congelati. I due urlano, chiedono i documenti. Io sono famoso, vero? Io, zitto, immobile. Anche tu sei famoso, vero? Io, zitto, immobile. Che non ti hanno insegnato a parlare? Nemmeno un grugnito? Dai, che un grugnito ce la fai a farlo. Da bravo scimmione. Io, zitto, immobile. Il treno non è mai stato così lontano come in quel momento. Il palo mai così immobile. Chiudo gli occhi. Immagini sfocate. Bud che viene strattonato, la bustina bianca sventolata con due dita dal poliziotto che sta dalla parte di Bud e i documenti che navigano per terra nelle pozzanghere. Tanto per un bel po' non ti serviranno, mio caro negro muto. Quante parole quella sera. E poi quante ancora al processo. Le domande, mille domande. Io zitto, immobile. E poi la prigione. Il divieto a suonare per un sacco di tempo. Ma tanto vale uccidersi. No. C'è Nelly. Le visite di Nelly. Con la sua bella faccia. Non quelle facce rassegnate che stanno tutte in fila al di là del vetro. Facce che dietro un finto affetto mostrano il vero rimprovero. Lei no, è solo amore e dolcezza. Noi ci capiamo senza parole. Dopo la prima volta non alziamo più nemmeno il citofono per parlarci. E potrebbe dirmene di cose, rinfacciarmi tutto. Ma non lo fa. E non è che si trattiene. È semplicemente non è così che la pensa. Lei sa, è l'unica che sa. Lei sa che il palo sta davanti al treno. Gliela faccio pagare a quel tipo. Per una volta non ho bevuto, non ho fumato neppure una foglia di prezzemolo. Sì, lucido, lucido nel mio e nel loro tempo. Suoniamo ancora nello stesso locale perché comunque il posto ci piace e noi piacciamo alla gente che ci va. Oh, il padrone ci tratta male, pensa alla pistola che tiene nel cassetto. Pensa che noi siamo solo degli strafatti, ma va bene, sì sì, benissimo. È il suo tempo in fondo, la sua pazzia, no? E noi suoniamo che è una favola. A Dixie e Mai giocano a rincorrersi, si nascondono e si trovano. Entro io ed è come un girotondo di bambini felici l'ultimo giorno di scuola. Vade, Max, stendono la coperta di note su cui tutti e tre rotoliamo. Io scendo dal palco e loro continuano. Ah, la gente applaude una sola dopo l'altro e io scendo. Ho da spiegare a quello là che anche se negri, anche se strafatti, anche la sua stramaledetta pistola, la vita questa sera ha deciso per una volta di stare con noi. Vado all'entrata dove c'è la biglietteria, mi slaccio i pantaloni senza toglierli e inizio una lunga, soave, liberatoria pisciata. La musica di Mai accompagna il mio gesto, l'acqua giallogna la scende dai gradini della biglietteria, rallento un po' sulla moquette del corridoio d'ingresso e poi finalmente va giù, giù, giù, giù, dentro la sala. E lui sta lì fermo, lui ha capito, la pistola resta nel cassetto e io riprendo a suonare ed entro perfettamente a tempo, raccolgo le note che Miles ha lasciato cadere e le riporto su, su, su, su, tutti con me a volare, sì, volare, forse per l'ultima volta. Aveva ragione su tutto, Bird. Lo so, l'ho sempre saputo, anche se l'ho capito tardi. Aveva ragione. E basta. Il resto sono tutte le gabbie che ti mettono intorno per impedirti di volare. A Bird facevano paura solamente le cose normali, quelle impossibili. No. Che stupidi che siamo stati a ridere e a piangere di lui. Come quel giorno a Parigi. Ti ricordi? Quando siamo tutti presi dal nostro film. Siamo lì, in quella cantina. Arriva Juliette Greco con i suoi amici. Smettiamo di suonare. Quasi corriamo giù dal palco. Le presentazioni. Ecco Sartre. Sì, il grande Sartre. Si avvicina a Bird. Gli stringe la mano come una benedizione. Mi piace molto come suona. Sì, sono Charlie Parker. Ma tutti mi chiamano Bird. Comunque anche a me sai piace molto. Come la suoni la batteria. Bravo, bravissimo. A ricordarla adesso la faccia di Sartre e degli altri e ridere di gusto. E ci va bene ridere, che abbiamo riso troppo poco. Ora ricordo. È pomeriggio e sono a Los Angeles e sono a casa di sabato pomeriggio e fa un caldo bastardo, sì. Mio figlio Charlie parla, prova a parlare, gioca sul pavimento. La voglio portare con me oggi che si va a suonare. Sì, sì. Senti, ma non ha senso. Non capisce ancora il gel. Stronzate! Quando io gli metto sui dischi del vecchio Duke, lui sorride felice! Ti piace Duke, vero? Sì, sì, papà! Duke! Duke! Allora, ecco, bravo, papà! Senti, quando cominciano a suonare quelli lì, Buddy e Bird, come chi è Bird? Bird, quello che suona come Buddy, ecco, ti devi mettere vicino a quello che suona come Bird. Che pomeriggio! C'è Miles che ci dà dentro, sì, Buddy sta sempre in giro a coccolare la melodia, e poi c'è Bird, ecco sì, siamo tutti lì che suoniamo e a un certo punto il mio piccolo scattona sulla pedala di legno e si attacca ai pantaloni di Bird e strilla! Ah, avreste dovuto vedere le facce! Forse ride beato, lui è un bambino, lui ha già capito. gli altri ascoltano la storia di mio figlio dei dischi di Duke e scoppiano tutti a ridere. Che pomeriggio! Sì, siamo in casa, siamo in casa, la mia piccola casa. Sì, è l'unica casa che ho avuto prima di venire qui da te, Nick. Sì, Nick Lab, io non posso andare senza tessera. Sto al piano. Sì, te lo ricordi? Quel piccolo piano verticale, quei pezzi di legno che si staccano quando suono troppo forte. E i nostri figli che giocano sui pedali della sordina. E poi c'è Nelly che stira. E il fumo delle pentole che riempie la stanza. E la musica. Sì, la mia musica nella testa e nelle mani. Musica che nessuno quasi ascolta. Ma non importa. C'è Nelly. Ci sono le mie piccole cose. Le uniche che mi fanno felice. Sotto casa il mio lampione. Che bello. A volte, anche in piena notte, mi piace scendere e vedere se è ancora lì. Se è acceso, se la luce che manda è sempre la stessa. Se il cane che passa tutte le sere e lo saluta con le coda è già passato. Cose facili che mi riempiono la vita. È New York la nostra casa. Viviamo in una stanza d'albergo, io e te, Charlie. Sono fuori dal mondo. Io che vengo da una famiglia normale, borghese, di provincia, non riesco ad ambientarmi subito. Ma la tua scuola è buttarsi nell'acqua fredda e muoia chi non sa nuotare. In un attimo so tutto. Siamo sulla 52esima strada. E ti ricordi? Siamo in macchina. E tu con quello stupido accento inglese che ti piace tanto quando vuoi fare lo spiritoso, offri un passaggio ad una delle tante ragazzette bianche che ti ronzano intorno. Siamo in macchina. Stai mangiando un pollo fritto con le mani e chiedi a quella di succhiartelo. Sì, così, di succhiartelo lì, in macchina. Quella si china e inizia. Sì, sì, inizia ad andare su e giù. Io guardo fuori, penso di tossire anche. E tu strafatto di eroina che ti incazzi di brutto. Ehi, ma non ti darà mica fastidio? Beh sì, un po' sì, mi sento a disagio. E allora girati dall'altra parte, metti la testa fuori dal finestrino e vedi di non sbattere la tua bella faccia da negro contro il semaforo. Ma non mi rompere i coglioni. Ho voglia di pollo fritto, ho voglia di un pompino e devo andare alle prove, chiaro? Quindi sei tu che hai sbagliato giornata. Cazzo che vita. Senza soldi, conosciuti solo in quelle due o tre strade. Anche senza donne, almeno io. Solo la musica. Forse quello è il segreto. Lo sono solo, pensi che sono matto, Charlie, ma a volte ti invidio. Invidio te che te ne sei andato via prima di tutti noi. Quanto mi hai fatto impazzire allora! I soldi che mi hai rubato, sempre a caccia di droga. E la droga che ho iniziato a prendere anch'io. Perché a stare lì con te sembra impossibile rimanerne fuori. Va tutto insieme, prendere o lasciare. Lo so, vado troppo in fretta. Vado troppo in fretta. È il mio tempo da vecchio che si è accelerato. Sono stufo, corro, così magari il gioco dell'oca finisce prima. Se ti accorgi di aver vissuto 30 anni per niente. È una bella sberla, Charlie. E in questo buco di stanza c'è rimasto poco. Io, la mia tristezza e le foto, quelle con le mie donne. C'è Lilian, bella come sempre. C'è Alema, che mi carezza i capelli. C'è Ruth, inginocchiata davanti a me nella nostra casa in Italia. Sorridiamo infelici. E poi Diana. Siamo a Gothenburg e ci baciamo come due fidanzatini. Poi sono io da solo, in quel motel vicino a San Francisco. La foto l'hai fatta tu, abbiamo appena litigato, io sono in maglietta, voglio di spaccare altri mobili, ma tu scatti la foto e mi fermi, mi imprigioni, mi rubi lo spazio, il tempo. Guardate la foto, sono terrorizzato. E poi ci sono tutte le altre donne, quelle che sono passate senza lasciare nemmeno un ricordo, neanche il tempo di un click, neanche un ricordo. Ora ricordo. Sono con Billie Holiday e Fats. Fats Navarro. Ma di chi è? Di chi è quel cappotto nero strappato? E quel cappello sformato? E quella donna? Lei lo so chi è? Che ci sia del gin dentro di me o ancora una goccia di sangue, poco importa. Di lei ricordo tutto quanto. Ricordo il primo sorriso, la prima nota che ho sentito. Avevo 20 anni. Lei ne aveva 18. Oh Dio, se era bella quando l'ho conosciuta. Ora ricordo. Tu, Lady, devi cantare e dici che vuoi me. Quelli non vogliono, fanno le solite storie. Che c'è un sindacato, che c'è un programma da rispettare. Ma tu sei la star e tu decidi. E suoniamo da Dio. E io mi sento come non mi sentivo da tempo. Finalmente sono tornato alla musica. Sono lì, sul palco, tirato a lucido. Sembro mai, tanto sono bello e... E suono! Suono! Suono! Ed è bella adesso che io la rivedo. Sale sul palco con quel passo da regina. Canta, è lì al pianoforte. Che aspetta di sentire, con la solita aria di chi non ha un cazzo da fare. E noi altri? Noi altri ce ne stiamo sparsi per il locale. Chi a bere, chi a fumare, chi a giocare. Poi questa tizia inizia a cantare. E beh, io non resisto. Count alza la testa dal piano e si asciuga il sudore sulla fronte. Io non resisto, non ce la faccio. Mollo i dadi, prendo il sax e suono piano. Un piccolo blues che si alza in volo e le va vicino. Lei apre solo un poco gli occhi che tiene chiusi mentre canta. Incontrano i miei. E lì noi abbiamo iniziato a vivere. Lei la chiamano Lady perché non vuole accettare le mance dai night dove lavora. La chiamano Lady per prenderla in giro. Io invece la chiamo Lady Day perché è davvero una signora. E lei ricambia. In un mondo come questo solo i cretini continuano a chiamarsi duchi, conti, principesse. Oggi l'uomo più importante è il presidente Roosevelt. E tu sarai il presidente del jazz. E così io divento the president, il presidente, press, per tutti. E poi noi si sta insieme. Nell'orchestra di Count Basie si suona e si sta in giro. Perché questo è il nostro tempo, quello dove non ci si deve fermare mai, sempre insieme. Quando siamo in tournée, al ritorno, noi ci mettiamo sui sedili dietro della corriera e sbelliamo gli altri della band a dadi. Se io non sono in vena, beh, si butta lei per terra e gioca come se non avesse mai fatto altro nella vita. Poi noi arriviamo a New York e lei è tutta sporca, con la polvere sui capelli, le calze strappate fino alle ginocchia. Ma a vederla scendere i gradini di quella corriera, beh, lei sembra... Una signora che sta andando a Broadway per una prima. E poi su e giù per la 52esima strada. Perché questo è il nostro regno. Si rimbalza da un locale all'altro e lei canta. Eh sì, ma a dirlo così non si capisce niente. No, perché il mondo è pieno di gente che canta e che canta pure bene. Ma con la mia Lady... Tutto questo non c'entra. E poi via, fuori, nella notte fredda, con Lady a braccetto, le mie dita sulle sue, leggerissime, e le labbra che si sfiorano prima di salire sul taxi. E piove intorno alla luce dei lampioni, una nebbia sottile. si appanna tutto. E poi sto lì a parlare con Fez. Provo a parlargli, ma Fez non ascolta. Parla per ore e parla dell'uomo bianco che ti vuole fottere. E parla della chiesa che è come l'uomo bianco. E parla, parla, parla, parla, parla. Io provo a fermarlo ma non ci riesco. So che ha ragione, ma so che così si farà male, si brucerà. Bisogna combattere l'uomo bianco, ma per farlo non bisogna perdere la testa. Che detto da me fa un po' ridere. Io che sono sempre ubriaco e combino sempre un sacco di guai. Io che sono dentro un club di New York e bevo un drink e poi un altro e un altro ancora, e all'improvviso tutto diventa bianco. Comincio a leggere quello che pensano gli stronzi nel locale, i loro pensieri, punture di spillo nella testa, e allora urlo come se fosse solo rabbia e urlo. Il selvaggio che vogliono, ecco cosa sono: sedie rotte, vetri a pezzi, uno scappello contro il grande specchio, la polizia. Non mi sono fatto nemmeno un graffio, eppure ho sfasciato tutto. Anch'io, caro Pezzi, ho voglia di morire come te, ma mi succede solo quando sono ubriaco. Ma tu, Fez, non ascolti, tu parli, non ascolti, stai già pensando al tuo viaggio. Quando ti rivedrò, quando ti rivedrò. Ci rivediamo presto, Mingus. Ci rivediamo presto. Ma non ti ho più rivisto. E non ho più rivisto la signora. Ve ne state andando tutti. Io resto qui, con questo maledetto vento che mi sbatte contro. Sto qui, immobile, sempre più solo, e nessuno si ricorda più di te, caro Fez, e nessuno ti sta più ad ascoltare. Eppure te, eppure quell'altro mio amico, Bud Powell, eppure voi due parlavate quando suonavate. Avevate una storia da raccontare, la storia della vostra vita. Ed è quello che dobbiamo fare noi, raccontare. Noi siamo una lunga catena di fatti, bisogna solo capire, metterli insieme. Le ho ancora tutte in testa le mie foto. Hanno ragione i selvaggi, ti rubano l'anima. Io veramente l'ho regalata, senza pensarci, l'ho cacciata dentro una siringa, ma non importa. Ogni buco è stato un calcio alla vita, quello che gli altri volevano. Ogni buco è stata una maschera per nascondere la realtà, per inventarsene un'altra. Il treno è arrivato. I club sono pieni e i critici mi applaudono. La mia musica piace. Piace per la prima volta. Dizzy e Charlie parlano di me come di una loro guida. E così tutti gli altri. Che ride. Ma io non mi sono mosso di un centimetro. Io sono zitto, immobile. Io sono il palo. Adesso che il treno è arrivato, dovrei essere felice. Ma io sono come ero prima. Il lampione sotto casa mia continua a darmi più soddisfazioni. Mandano Time Magazine a intervistarmi. Addirittura la copertina. Tutti lì che mi vogliono fare delle domande. E a me fa male la testa. Eppure io provo a spiegare, perché magari poi mi lasciano stare. Ma loro non lo capiscono. E a me fa male la testa sempre di più. Come se le pile si stessero scaricando. E poi anche Nelly è sempre più pallida, e poi passano gli anni e quelli continuano a non capire, e anche gli amici che mi tormentano con questa storia del razzismo, dei bianchi che ci odiano. Ma a me non interessa, non mi interessa davvero, queste cose non mi turbano. A me disturba soltanto la gente che cerca di farmi pensare a queste cose. Loro non lo capiscono. Io non sono pazzo e nemmeno deficiente. Loro non c'erano quando i poliziotti bianchi hanno spappolato la testa a Bud, oppure quando ho preso quel bicchiere d'acqua. Tu lo sai, Nika, perché siamo io e te sulla tua enorme Bentley nera. È buio e siamo appena ripartiti dopo aver mangiato e bevuto e fumato anche. Ma io ho fame e sete ancora, soprattutto io ho tanta sete. Ferma la macchina, dai, quest'albergo va benissimo. Io ho sete, 87 e corro fuori e quel cretino si spaventa. Io non so cosa dirgli. Quello se ne sta rannicchiato dentro la sua reception del cazzo e io ho talmente tanta sete che non riesco a dirglielo. Ma è evidente che ho sete, è molto evidente. Insomma, come fa a non capire che ho sete? Io agito le mani, le agito come chi ha sete. Almeno io quando ho sete agito le mani e egli lo sa e mi dà da bere. Questo non mi dà da bere perché... Ah, alza il telefono, fa un numero, parlato con qualcuno. Io sto lì un po' a guardarlo stupito, poi torno in macchina, risalgo dalla parte del guidatore. Ho sete, ho fretta di arrivare da uno meno deficiente di questo, ma non posso partire. Una macchina della polizia, scendono, urla, io stringo il volante, ma io ho solo sete, conta solo il volante. Poi sento le tue urla, Nika, e sento le mie mani che si aggrappano al volante e vedo il manganello nero battermi contro le dita che non si staccano dal volante. Io non dico niente. Io ho sete. È un pianista! Lo uccidete! Urli, Nika, li minacci, gli sbatti contro i tuoi nomi, i tuoi soldi. E quelli si calmano. Io sto lì. È come quella volta con Bud. Capisco che gli altri non capiscono. E poi c'è stato quel maledettissimo momento in cui tutti si sono messi a suonare come me. A me mi è sembrato di non avere più aria. Non ho più niente da suonare, non ho più niente da fare. Ma il peggio deve ancora venire. È il momento in cui non ho più Lady con me. Strade diverse, troppi chilometri, troppa droga per lei e troppo dolore per me. E poi il treno passa. E il palo resta lì. Succede ormai spesso che nessuno capisca. A Los Angeles non c'è Nelly. E io mi trovo in quell'immenso aeroporto a guardare il pavimento lucido e le poltrone blu che stanno allineate perfettamente. Quando all'alba si avvicina un tizio a chiedermi se mi serve qualcosa, come faccio a spiegargli la semplicità, la facilità di quel pavimento lucidissimo, di quelle poltrone blu allineate perfettamente? Come faccio? Come fa a non capirlo da solo? Quello continua a farmi delle domande. E poi arriva la polizia. E poi gli infermieri. E poi quelle stanze imbottite. Le medicine. Nelly! Nelly! Hai gli occhi pieni di lacrime. E sei sempre più pallida. E stanca. Il tempo. Il tempo passa in fretta. Se c'è Lady a braccetto e se sei vestito tutto elegante, con la custodia del tuo sax che sembra una valigetta magica. Il tempo non passa, resta immobile. Se sei in un buco dove tutti si divertono a sputare la loro rabbia. Io ho iniziato a morire lì. I dottori mi dicono che non è niente, ma sono preoccupati. Lo capisco dalle loro facce. Anche il mio agente, il mio manager. Quelli della televisione sono qui sotto, vogliono un'intervista. Ti viene da ridere, vero? Ma io non ho più voglia di tutto questo. Voglio solo tornare su quel palco, a St. Louis. Guarda, mi basterebbero anche una notte qualsiasi di quelle assurde che passavamo insieme. Mi basterebbero le prime due settimane che ho vissuto a New York. Ho 19 anni. Le jam session mi svuotano, ti ricordi? E continuamente chiederti di lasciarmi andare. Tu non hai bisogno di me. E tu niente. Anzi, sempre tu a fare domande a me, come se quello bravo fossi io. Ehi, Junior, ma questa nota cos'è? Junior, così mi chiamavi. Oh, Junior, mi rifai questo accordo? Io non ci capisco niente. E io lì a dire a Bird come volare. Poi il gioco si rovescia, anzi, ridiventa normale. E tu che urli? Vuoi smettere di suonare quello che sta scritto sui fogli? Suona quello che hai in testa. No, suona quello che non sai nemmeno di sapere. Suona, vola. E noi volavamo! E gli altri intorno come dei matti. Una notte incontro Collar, un mio amico dei tempi della scuola, St. Louis. Sai dove Charlie? No, non lo so dove sia. Charlie è imprevedibile, perché lo cerchi? Sono un musicista e voglio suonare con lui. Ah. Collar lo rivedo con noi da Minton su un paio di settimane dopo. Tavolo pagato, puttane al fianco, capelli tirati indietro e scambi di occhiate con te, Charlie. Ci seguirà per tante notti, Collar. Diventerà anche il mio pusher dopo. E dopo di lui ne verranno altri. Chi non sa suonare, spaccia! Spaccia per noi! E così gli sembra di partecipare un po' a questa cazzo di rivoluzione che stiamo mettendo insieme! E... non riesco a non ridere neanche adesso, in piena notte, con questi dubbi che mi fanno male anche quando faccio il più piccolo dei movimenti. E rido di gusto pensando ai soldi che si è fatto il tuo primo pusher, perché gira voce che chi prende la sua roba inizia a suonare come te. Cazzo, quel tale di Los Angeles quasi muore sul palco di Mintons. Poveraccio, non ha mica torto. Se tu ti spari una pera e suona così, lui se ne spara tre e ti fotte. Invece ti è fottuto il cervello. Notti con dentro tutto. Con dentro troppo. Ma la notte finisce presto. Le notti belle. Ci hai pensato a questa cosa? Una notte come questa, in un letto d'ospedale, sembra che non arrivi alla fine. Poi ci sono notti di suoni e di odori che ti scivolano tra le dita senza lasciarti il tempo di godere. Solo un vago sapore in bocca, che poi al mattino è uno schifo. Ecco, vedete, ora ho soltanto voglia di guardare le foto. Persino quella dove sono distrutto con la faccia gonfia, spaccata, così simile all'indiano che mi sta accanto. Lui sa cosa mi è successo, è l'unico a saperlo. Lui c'è quando... faccio colazione con Manic. Vuole soldi, è un duro. E lui non bisogna mai farli sentire cretini. Mangio le mie uova, il ketchup è buono, la senape anche. Diverso a chili, una signora, un tavolo più là, in questa schifosa tavola calda, ci guarda male, ma a Manic non importa. A lui interessano i soldi, gioca con un coltello, con una forchetta. Violenza dappertutto, poi colpisce il rosso del mio uovo, rosso per tutto il piatto. Metafora, penso, e sorrido per un attimo della mia intuizione. E passo al caffè, lungo, ormai freddo, brodo dolciastro, anzi no, amaro. Apro una bustina di zucchero, poi una seconda, una terza, le verso dentro, poi una quarta, una quinta. Mi fermo solamente quando la signora si alza e se ne va. Non mi sono accorto che lo zucchero è uscito fuori, il caffè non c'è più. Voglio i soldi. Bene che adesso urla cose che non capisco. Io dico sì, lui dice dammeli, e io dico sì te li do. E lo ripeto perché non voglio mica farlo arrabbiare. Lui mi dà la roba, io gli do i soldi. Ma passo alle frittelle di mele. Che buone le frittelle di mele col succo d'arancia, fanno tanto casa mia, con la mamma che mi coccola. E che fame che ho. Manic adesso non urla più, ha la faccia seria, non fa nemmeno l'aria duce. Prende un vasetto di ketchup, si ferma un attimo e me lo spacca sui denti. Io sento il sapore dolce del mio sangue mischiarsi con i pezzetti di vetro e l'amaro del pomodoro. Poi sento altri colpi, scivolo giù sul pavimento, uno sporco, una segatura, poi altri calci. Basta, che sonno, che fame che ho, basta. La mia bocca non c'è più, nel riflesso del bancone vedo l'indiano, tutte quelle rughe piccolissime a segnare il contorno di quello che un tempo poteva essere una bocca. I denti? Quali denti? Ci sono le foto a ricordarmi quel giorno. Io per me me lo sarei già dimenticato. La nostra notte è finita con le puttane e con la droga, Charlie. È finita che tu a Los Angeles, mi pare. Non mi dai i soldi. Siamo io e Max e tu non mi vuoi pagare. I soldi li hai avuti, ma te li sei sparati tutti in vena. Cazzo, io ho una moglie. Ho già due bambini, non mi faccio ancora. Voglio solo suonare, voglio suonare, ti prego. Voglio solo suonare, ma tu te ne freghi. E allora prendo la bottiglia di birra, la rompo e ti attacco al muro. Le mani a stringere, il tuo collo sudato, la scheggia di vetro ad un millimetro dalla tua faccia. In quel momento ho capito che non saremmo più stati felici. La stessa sensazione del piccolo palco di St. Louis, ma rovesciata. Dall'altra parte del mondo. In quel momento noi abbiamo iniziato a dividerci. Tu forse non l'hai capito. Io sì. Io che avevo iniziato a scendere troppo in fretta, l'ho capito la sera d'estate. Dentro una grande casa, la mia, durante una bella festa, la mia. Tutti felici per il mio ritorno, da dove poi non si sa. Io lo sapevo, loro no. E io so da subito che da qui in poi non sarei più stato uno di loro. Metto un piede dentro casa, calpesto il parco lucido. E lo stomaco si buca, l'aria si blocca nei polmoni, le voci sbattono contro i vetri spessi, mi infilzano le orecchie, la musica di sottofondo, mi ghiacciano i bicchieri. Sto bene, qui devo stare bene. Mi ripeto una volta, due volte, sto bene, qui devo stare bene. Urlo quasi, che ho paura di essere sentito, niente, nessuno si accorge di niente. Sto bene qui, lo dico ancora. Ci sono tutti gli amici e anche un sacco di gente che non conosco. Bianchi più che altro. Scaccio via i cattivi pensieri, ma è più forte di me. La testa non c'entra, sono il cuore, lo stomaco, i polmoni a ribellarsi. Poi mi avvicino a Miles e Burke che parlottano e stanno peggio di me. Non riescono a fingere. Beati loro. Anche io voglio costruire un paradiso tutto mio, ma senza droghe, senza alcol, senza puttane, senza notti di rete troppo a lungo. Voglio una casa che non sia questa! Via! Andate via tutti! Basta! Basta finti sorrisi! Parole che non contano niente! Musica d'ascensore! Come stai? Bene, tu? Come andate in ospedale? Bene, c'era anche tua madre! E allora, come è andata la musica? Benissimo! Mi sono scopato a tua moglie! Basta! Soltanto sentire la mia musica, suonare la mia musica, come un milione di uccelli che cinguettano, cantano, sbattono le ali alti nel cielo. Li sentite? Potete sentirlo questo suono che va su dolcemente e poi cade giù di prepotenza. Io posso vederlo tutto questo. Sento freddo. Sono appoggiato con la fronte alla finestra della mia stanza. Il mio acquario. Il fiato appanna il vetro. E io non vedo più niente. Non vedo più niente, non sento più niente! Mi ricordo, ci provo! Ricordo che c'era la stessa musica il giorno in cui sono nato. Ma è un'illusione, lo è sempre stata. Gli uccelli stridono, un fischio insopportabile! No, no, non si scappa da questa gabbia. L'ospedale ha le spalle troppo strette, come una prigione che ti segue anche dentro casa, la mia casa. Non posso scappare, non posso più. Ma che cosa sto dicendo? Di che cosa sto parlando? E con chi? Perché? Le parole non seguono più la mia testa. Dio, se solo avessi ancora un po' di gin. Fuori dal mio acquario piove. La stanza strada è bagnata. Le luci del locale là di fronte mi arrivano sfocate. Ma perché non la spengono quell'insegna con quel nome del cazzo? Birdland. Per fortuna c'è il mio giradischi che suona ancora. Frank Sinatra non si stanca mai di girare sul piatto. Escono gli amori più belli e sgangherati da quel grammofono. Ecco dove ti ha ricacciata, dannata bottiglia. Sai, il bello di essere disordinati è che si trova sempre tutto quanto. Chiamo Lady. Sì, chiamo la mia Lady a New York. Ma non risponde. Sta peggio di me. La ritrovo abbracciata al suo barboncino nella casetta sopra Harlem, dove mette su i vecchi dischi per sentire il sospiro del mio sax. Io cerco la sua voce. Ci inseguiamo. Inutile. Non suono più. Mi devo ricordare di respirare. Che male alla testa. Guardo fuori dalla finestra. Solo nebbia, fa freddo. Dai, mettiamo in fila le fotografie. Io in concerto con quel maglione assurdo pieno di buchi, liso con quegli occhiali tenuti insieme dallo scotch. Io per strada smarrito. Io su una panchina che imploro l'ultimo raggio di sole con un vecchio pensionato. Vedo tutto, riesco a sentire tutto. Me l'ha insegnato Bird, l'ha insegnato a tutti noi con le pietre nel cuore, a Miles, a Mingus, persino all'estero. È l'unica cosa che ho imparato. Mi è servito solo ad essere sempre più triste e solo. No, io vado nel mio tempo. Io non posso farmi ingabbiare. Prima pensavo che la droga mi aprisse la porta, mi indicasse la strada giusta. No, non la droga né l'alcol. L'ho capito a Parigi, in Francia, dopo il manicomio, dopo che ho bruciato il letto nella stanza del mio albergo, dopo che ho corso nudo per la strada, dopo che la polizia mi ha riempito di botte, dopo che ho rischiato di morire in sala di incisioni, dopo ho tirato fuori dal cuore, dallo stomaco, la più bella canzone che la musica abbia mai avuto. Forse l'hanno solo scritto o l'ho sognato. Lover Man. Non importa. Ora sto su questa panchina dietro il Boulevard Saint-Germain, poco dopo la fermata dell'Odeon, e sto bene, in mano il mio vecchio libro di poesie di Dylan Thomas, quello che ho sempre con me. Un verme racconta lo stato medio dell'orologio. La lumaca non diventa nel modo di giorno. Ma che cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Se un insetto senza ferro dice che il mondo lentamente si consuma, il mondo lentamente si consuma. No, io mi consumo. Se non riesco ad andare via, voglio volare via, via. Sì, hai ragione, vecchio Dylan. Hai ragione, ma non ha senso che proviamo a spiegarlo agli altri. Sono cose che quelli non capiranno mai. Sono come scimmie con il pennacchio, come le ragazze del conservatorio di Kansas City che credevano di suonare bene Chopin. Basta, basta, basta, via con questo rumore, con questa musica. Andate via, via, via, via. Anzi, no, restate ancora un po' con me. Restate qua. Io non ho ancora finito di raccontare. Io sono a New York e volo via questa volta. La baronessa Nika è l'unica che prova a trattenermi. Lei è una vera signora. Si prenderà cura lei di mia moglie. Mi ama la baronessa. Ama tutti quelli che io dico di amare. Nika! Nika! Veniamo tutti da te. Bisogna alzare le mura del castello. Barrichiamoci. Non sprechiamo tempo a sprecare parole. Se la gente non vede le cose più semplici, è tutto inutile. Forse ora che il treno sta tornando a prendermi, forse ora capiranno. Ma non importa. Io sto tanto bene in questo letto. Apri un po' le tende. Laggiù, oltre quei palazzi, c'è la nostra strada. La 52esima. Sì, lo so. Tu dici che non è più quella di una volta. Che non la riconoscerei. Mi parli. Tu e Nelly siete le uniche a capire che io non sono pazzo. Chiamate Junior, chiamate le bambine. Alziamo i muri, chiudiamo le orecchie. Io sono stanco. Ho mal di testa. Chissà, forse sono pazzo. Sono un pazzo. Potrebbe vedere un grosso uccello nero che gira sopra la stanza. Non sbatte le ali. Non è impaurito come lo sono gli uccelli quando sbattono contro i muri. Sono un pazzo. Potrebbe pensare che quell'uccello nero enorme gli sta quasi sorridendo. No, ora bisogna che dorma un po'. È notte. Per una volta faccio una cosa normale. Chiudo gli occhi alla stessa ora degli altri. Per una volta sono normale. Salgo sul treno e vado via. Che succede? Deve essere quella suora che fa il giro di notte. In fondo al corridoio c'è una luce blu, come una lingua di calore. Forse sta venendo giorno. Domani sarà tutto a posto. Uscirò di qui. Magari chiamo Prince o mio nipote Vincent. No. Forse chiamo Max. Max. È tanto che non lo sento. Sai, Charlie, è uno degli ultimi rimasti del nostro gruppo. È l'ultimo, insieme a me, dei sopravvissuti. Non parliamo mai delle nostre notti. Sai come dico, no? Per me il futuro inizia ogni mattina. Non mi voglio guardare indietro. Ho già pianto tanto stanotte. Troppo. Così, domani mattina uscirò di qui. Guarda. Sta già venendo fuori il sole. E c'è anche un uccello nero che vola vicino alla mia finestra. Che buffo questo uccello! Sembra voler entrare dentro la stanza. Gli devo piacere. Deve essere uno di quei piccioni che rompono il cazzo quando ti finiscono in casa. Ma che importa? Domani tutto incomincerà di nuovo. Lancerò i dadi e magari sarò fortunato. Come quel giorno sul piccolo palco di St. Louis. Magari sarò felice. Felice ancora una volta. L'ultima. Come non lo sono mai stato. Ora basta ricordare. Il sole brucia forte e io sono troppo stanco. Sopra di me, altissimo, vola un uccello nero. Le ali immobili, aperte, nere. La sua ombra mi si appoggia sulle ginocchia e le arruffo le penne con la mano. Per un attimo mi ricordo di Charlie. Di Bird. Sai, Charlie era davvero speciale. Noi che l'abbiamo sentito davvero suonare, non siamo riusciti a scappare. Per questo siamo tutti qui. Per questo un giorno ci rivedremo. Guardo fuori dalla finestra. La nebbia si è mangiata l'ultima fetta di luci. L'acqua dei canali sotto di me tossisce, sporca. Ho male dappertutto. L'indiano è qui che mi guarda. Una lacrima scende nel torrente delle sue rughe. Poi pulisco il vetro della finestra per vedere meglio il riflesso. Ancora una fotografia. Il riflesso nella superficie umida di una finestra. La faccia è coperta. Quello sono io. Indosso i pantaloni che ho adesso e le mie scarpe nere. Sono sdraiato, ma non sono a letto. L'acqua del canale è lì vicina. Vorrei solo poter suonare di nuovo. Magari domani vado in quel club che c'è in fondo alla strada e parlo con il padrone. Magari una vita può iniziare due volte, come in un gioco, basta tirare i dadi. Miles lo diceva sempre. Magari, forse, ma ora no, sono stanco davvero, ho sonno, mi rannicchio un po' e mi tiro su il lenzuolo bianco, sulla testa, come nella foto, l'ultima. Basta parlare. Questa bottiglia piange l'ultima goccia di gin. Ma nell'altra magari ci sarà ancora un po' di sherry. Poi se ho voglia scendo in strada. Sì. Se avessi voglia potrei andare da Milton. Oppure proprio al Birdland. Magari trovo qualcuno con cui mettere su una serata. E magari riprendo a respirare. No. Ora mi sdraio e dormo un po'. Suona, Frank, che io ti accompagno col mio sax. Suona, che ci siamo tutti. Da bambini, tanto tempo fa, volavamo tutti assieme. Noi negri avevamo le ali, il buon Dio ce le aveva date, i bianchi giù a faticare come somari e noi a planare sopra le loro teste. Poi abbiamo esagerato, no, non con l'alcol, le droghe, le donne, no, abbiamo esagerato con la musica, sì, e così ci hanno tolto le ali. I bambini però se le ricordano ancora quei giorni, quando sono piccoli. Si sentono ancora sulla schiena le ali e le riescono a vedere anche sulle schiene di quelli che sembrano uomini normali, ma non lo sono. Adesso è giusto che io voli via. Apro le ali, Bird vola via, mi disintegro, divento puro suono. Io torno nel mio tempo!